prestito ponte o commissariamento. Questa è l'ipotesi all'orizzonte per Alitalia dopo l'addio definitivo di Air France. Oggi o al massimo domani si terrà un Consiglio dei Ministri ad hoc chiamato ad assumere decisioni bipartisan, fatte cioè in accordo con la nuova maggioranza parlamentare. Attualmente la perdita di Alitalia, che brucia 1 milione di euro al giorno, è di circa 360 milioni di euro. L'emissione di un prestito ponte da parte del governo, si parla di 100-150 milioni di euro, ridarebbe ossigeno alle casse per traghettare la compagnia di bandiera verso una soluzione diversa da Air France KLM, che spetterà al nuovo governo trovare in tempi rapidi. L'escamotage per non incorrere nelle sanzioni di Bruxelles sugli aiuti di Stato sarebbe un decreto proposto dal Ministero dell'Interno per ragioni di ordine pubblico, anziché dal Ministero dell'Economia. Meno probabile l'ipotesi commissariamento per la contrarietà dei sindacati e per le pesanti conseguenze sull'attività di Alitalia, che dovrebbe lasciare a terra un centinaio di aerei, mantenendo operativi solo quelli sulle rotte economicamente sostenibili. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore.